grammatica latina e grammatica volgare. Quei che affermano la lingua latina non essere stata comune a tutti i popoli latini, ma solo propria di certi dotti scolastici, come oggi la vediamo in pochi, credo deporranno quello errore vedendo questo nostro opuscolo in quale io raccolsi l'uso della lingua nostra in brevissime annotazioni. Qualcosa simile fecero gli ingegni grandi e studiosi presso a Greci prima e poi presso dei Latini, e chiamorno queste simili ammonizioni, atte a scrivere e favellare senza corruttela, suo nome grammatica. Questa arte, quale ella sia in la lingua nostra, leggetemi e intenderetela. Leon Battista Alberti.